da nord a sud, o da sud a nord. Yeah. Prisma. Hey, yo. Dio. Alice Scratch Big Nose. Yeah. Che ci vuoi fare qui, barca? È un cazzo sulla data, baby. Sono cielo con un dito, sogno di toccare le stelle, svanire come una carezza svelta sulla pelle. Tutto ciò che io sarò, tutto ciò che io farò, tutto quel che io vorrò, so che sarà per di po'. La mia musica, la vita, la mia aria tra le dita. Se son ferro, le un magnete, perché amo di calamita. Quel che sono ormai lo so che lo devo solo a lei. Lei che con un boom chuck mi fa battere il cuore, lei. Sovrasto i miei pensieri, non mi fa pensare a ieri. Mi tira avanti, mi aiuta nei giorni più neri. Spiere io di paranoia, perché poi infine ci pensi. Ogni emozione la devo alle rime che hanno sensi. Il settimo senso è quello che ho stretto. C'è chi non lo comprende, c'è chi scrive e mi accetto. Ti aiuta, sai, ti prende, ti modella e ti corregge. Con quel suono che dalle casse ti sommerge. The 41. Parte della vita, però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere.